Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Radiobook. Oggi abbiamo un ospite speciale. Si chiama Sabrina De Siena e l'ho conosciuta in occasione di un servizio fotografico. Sabrina non nasce come una fotografa. La fotografia era solo un'enorme passione che lei portava avanti con costanza e dedizione. Però la sua bravura incredibile, la sua capacità di scrivere con la luce delle immagini meravigliose e quasi fiabesche, ha fatto sì che questo hobby diventasse poi un lavoro. Le piccole meraviglie che costruisce sono davvero stupende. Invito tutti quanti ad andare a vedere la sua pagina Facebook. Ma adesso lasciamo che sia Sabrina a parlarci. Grazie per essere qui intanto. Parlaci del tuo progetto fotografico. Si tratta di qualcosa che hai iniziato così, per caso e come una passione. Come è nata la curiosità per il mondo della fotografia e perché è diventata un amore così grande? Ciao Giulia, grazie infinite a te per avermi coinvolta in questa fantastica iniziativa. Allora, premetto che io nella vita sarei un'insegnante di musica, infatti sono stata per anni in giro con tournée teatrali, tra le altre cose ho interpretato il ruolo di Esmeralda nel musical Notre Dame de Paris. E probabilmente è stato proprio il visitare così tante città belle, bellissime, esplorare tanti usi e costumi diversi e il non avere la possibilità di fotografarli come avrei voluto a spingermi a comprare la mia prima reflex. Ho sempre avuto la passione per la fotografia. Infatti ho comprato una reflex ma senza troppe pretese. Non pensavo potesse diventare una passione così grande all'acquisto della mia prima macchina fotografica. Mi definisco proprio per il mio lavoro, per l'altro mio lavoro, una cantografa, perché attualmente mi divido al 50% tra fotografia e lezioni di canto moderno. Ma scatto da 7 anni e non ho assolutamente intenzione di smettere perché è diventata una vera e propria droga. Ti piacciono moltissimo i ritratti, ma non sei mai banale nei tuoi scatti. Cogli espressioni reali, sprazzi di bellezza e cose che vanno oltre l'estetica. Catturi un momento magico. Quali emozioni provi nel momento in cui senti il click dello scatto? Allora, per me scattare foto è assolutamente terapeutico, mi fa proprio stare bene, mi fa dimenticare tutti i piccoli problemi che ognuno di noi ovviamente ha. Io rinuncio e continuo a rinunciare avendo pochissimo tempo libero, magari ad uscite con le amiche, a cinema, a serate spensierate a vedere un film, perché lavoro al computer, perché programmo nuovi shooting. Mi fa stare bene, non ho bisogno di altro. Coltivare questa passione per me è assolutamente terapeutico, mi fa stare bene. Quando scatto foto, soprattutto quando realizzo qualche mio progetto personale, sono carica a mola, non dormo la notte pur di organizzare il tutto al massimo. Sono carica di adrenalina e praticamente più di una persona, soprattutto amici, mi hanno fatto notare che quando ho la macchina fotografica in mano, quando sono dietro all'obiettivo e scatto, sorrido come se stessi davanti all'obiettivo. Quando ho qualche problema o preoccupazione, riesco a non pensarci, riesco ad allentare lo stress, le tensioni e vedere le mie foto e vedere di aver catturato momenti di gioia, spontaneità, bellezza è una soddisfazione meravigliosa. Io sono una fotografa ritrattista e mi definisco una fotografa dell'amore perché a me piace fotografare qualsiasi forma di amore. A partire ovviamente soprattutto dai bambini, per poi passare alle famiglie, agli shooting di gravidanza, di maternità, i matrimoni, le coppie, i servizi prematrimoniali, tutto ciò in cui può essere rappresentato l'amore. Ovviamente mi piace tantissimo anche fotografare le modelle o i modelli, perché mi piace ricordare soprattutto alle donne, quanto siano belle. Secondo me ogni donna deve regalarsi una volta nella vita, e questa non è una pubblicità che mi faccio, un servizio fotografico che le ricordi quanto è bella e quanto può valere, perché spesso noi donne ce ne dimentichiamo. Non so, cioè, sono una fotografa ritrattista, come ho detto, quindi per me una foto non è interessante se non è rappresentato un qualcosa di vivo, che sia un soggetto umano, che sia un animale, ma che sia qualcosa che riesca a dare emozioni grazie alle espressioni. Che cosa vuol dire per te la parola bellezza? Quali foto, celebri o meno, reputi bellissime? Ecco, ho appena risposto involontariamente a questa domanda. Per me bellezza vuol dire semplicità. Amo le foto ritrattistiche, ovviamente l'ho già detto, e oltre ai bambini, matrimoni, eccetera, amo fotografare anche le donne. Però chiedo sempre un trucco semplice, un'acconciatura semplice, dei vestiti semplici. Perché non occorre, le donne sono belle anche senza troppi orpelli, senza che si nascondano troppo dietro al trucco e dietro acconciature sofisticate. I bambini, vabbè, i bambini amo fotografarli semplicemente perché la loro espressività è imparagonabile a qualsiasi altra cosa. E mi fa stare benissimo mostrare le loro foto ai genitori e guardare i loro volti emozionati e pieni di orgoglio. E di amore nei confronti di questi bambini che mostrano i loro sorrisi e le loro espressioni migliori davanti alla mia macchina fotografica. Qual è il progetto fotografico che vorresti assolutamente realizzare? Allora, un piccolo sogno l'ho realizzato veramente da poco, perché amando la fotografia, amando fotografare i bambini. Il mio sogno è proprio quello di inserirmi nella fotografia di moda dei bambini, quindi magari realizzare cataloghi di abbigliamento per case di moda importanti. Diciamo che ho da poco realizzato, firmato due cataloghi pubblicitari per bambini a tiratura nazionale. Non parliamo della Benetton, ma parliamo comunque di case abbastanza importanti. Avere in mano questi cataloghi con sopra le foto scattate da me è stata ed è tuttora una soddisfazione immane, davvero. Un'altra cosa che amo, ed è un progetto praticamente opposto a quello che ti ho appena detto, è questo. Io amo tutto ciò che è retro, che è vintage. Amo le case abbandonate, i luoghi disabitati. Amo immaginare chi c'era, che vita faceva, come si viveva nel passato. E infatti, spesso vado in giro a cercare case abbandonate, sia per visitarle, sia per ambientarci magari degli shooting per modelle. Quindi, una cosa che mi piacerebbe fare è fare un tour in America per visitare luoghi abbandonati come magari ospedali, manicomi, ospedali psichiatrici. Mi piacerebbe molto ambientare qualche shooting fotografico, ovviamente non di modelle che mostrano abiti alla moda, ma qualcosa che rievochi il tempo che fu e il disagio che poteva esserci nel vivere in determinati luoghi, ambientarlo in queste location. Sono pazza, cioè mi prenderete per pazza perché una fotografa di bambini, insomma, che ragiona in questo modo non è molto normale. Però è un sogno che ho da sempre, non è detto che un giorno non lo farò. Che cosa cerchi nei soggetti delle tue foto? Che cosa ti spinge a pensare, sì, questa persona voglio proprio fotografarla? Cosa cerco? Allora, dipende. Da quello per cui mi serve, insomma, se ho dei progetti particolari, li immagino sempre con una modella che abbia determinate caratteristiche e allora, vado a cercare quelle caratteristiche lì, ovviamente. Però, come ho già detto prima, io, voglio che le donne si sentano belle, perché le donne sono tutte belle. E ciò che le rende uniche sono proprio le proprie imperfezioni. Quindi a volte chiedo a ragazze che secondo me sono insicure, che non si piacciono ab abbastanza, di farsi fotografare perché la mia diventa quasi una missione. Io voglio mostrare a loro quanto sono belle, quanto possano sentirsi belle e quanto possano piacere agli altri. Quindi per me è importantissimo questo aspetto della fotografia. Non è un semplice faccio una foto, la metto su Facebook e vediamo quanti like prende. No, secondo me è terapeutico anche lasciarsi scattare delle foto. Come hai iniziato a documentarti sulla tecnica, le macchine fotografiche migliori e gli esperimenti creativi possibili? Allora, questa è una cosa di cui io vado molto fiera, sono assolutamente autodidatta. La mia è una continua ricerca, continua, sul serio. Io, anche per questo rinuncio al mio tempo libero, per documentarmi e per aggiornarmi continuamente. È un continuo investimento su manuali, monografie, enciclopedie. Ho una libreria zeppa di libri che parlano di fotografia. Ho cominciato con i manuali sui quali ho studiato come se stessi all'università, prendendo appunti, facendo i riassunti di quello che leggevo, evidenziando il tutto con l'evidenziatore, come se stessi all'università. all'università, insomma, mi sono laureata e ho cominciato a studiare di nuovo. Adesso invece acquisto libri, monografie, non tanto monografie, ma illustrati di fotografi che amo e che rispecchiano magari quello che è il mio stile. Ho imparato a usare Photoshop da sola tramite tutorial su YouTube, tramite manuali specifici e stessa cosa per quanto riguarda appunto la macchina fotografica. Mi piace documentarmi anche sulla storia della fotografia, sui vari generi fotografici, su quelli che conosco, quelli che sono i pilastri, i fotografi che hanno fatto la storia della fotografia mondiale e amo collezionare magari illustrati di questi fotografi. Questi libri mi danno ispirazione continua e mi insegnano tante cose. Ho tantissimo da imparare, ne sono consapevole, ma ho tantissima voglia di farlo. Il mio obiettivo è imparare ogni giorno almeno una cosa nuova. Quale messaggio avresti voglia di condividere con tutti gli aspiranti fotografi che ti stanno ascoltando? Allora, cosa voglio dire agli altri fotografi? La prima cosa che voglio dire è che l'attrezzatura è solo il punto di partenza, ma la prima cosa che bisogna avere è occhio, un buon occhio e sicuramente un grande cuore per fotografare e rendere uniche le proprie immagini, perché si può fare delle fotografie meravigliose con uno smartphone e delle fotografie scadenti con una macchina fotografica da 3.000 euro. Quindi, bisogna fotografare con il cuore prima che con la testa, e che è legittimo prendere ispirazioni da altri fotografi, assolutamente, però ad un certo punto bisogna trovare la propria strada e creare qualcosa di personale, solo così si può crescere giorno per giorno. A tal proposito, Giulia, vorrei dirti che, come avrai visto magari anche sul mio profilo Facebook, ho indetto un contest fotografico, un piccolo concorso fotografico in memoria di un mio zio fotografo che non c'è più da circa un anno, al quale si può partecipare gratuitamente, quindi è un modo per ricordarlo e si può assolutamente partecipare anche con foto scattate con uno smartphone. Non bisogna possedere necessariamente una reflex digitale, bisogna proprio capire questo, che è importante, che la reflex non serve a nulla se l'occhio non è buono. Anzi, questo è una cosa che io dico sempre, che se la reflex poi tra l'altro non si impara ad usarla in un determinato modo, è forse più soddisfacente per una persona che ha le prime armi scattare con uno smartphone piuttosto che con una reflex digitale, perché potrebbe anche essere avvilente, non ottenere il risultato che si vuole se la macchina fotografica non si sa usare in un determinato modo. Questo però, insomma, sono uscita un attimo fuori discorso. Dicevo del contest, non importa che la foto sia scattata con una macchina fotografica professionale, basta che si rimanga attinenti al tema che io ho proposto, alla citazione che ho proposto, che riassunta dice che la vita è breve, che bisogna godere di ogni attimo che ci ha reso felici, di qualunque bacio, di qualunque carezza e di qualunque momento nel quale si è stati bene. Lo dico perché appunto mio zio è venuto a mancare quasi inspiegabilmente in pochissimo tempo e quindi vincerà la foto che risulterà più attinente a questo tema. Per ulteriori informazioni riguardo al contest, questi sono gli ultimissimi giorni per poter partecipare. E potete dare un'occhiata sulla mia pagina fotografica SDS Pictures, anche per rimanere aggiornati su novità, quali contest spesso metto in palio dei premi per bambini oppure per adulti. Quindi se vi va, insomma, seguitemi. Grazie mille di questa bellissima esperienza e di quest'altra opportunità che mi hai dato di parlare della fotografia e un abbraccio. Ciao a tutti. Anche oggi per salutarci leggeremo un estratto di un romanzo. Il romanzo di oggi è L'elefante è già in valigia di Paola Casadei. Piove, ora di punta, tardo pomeriggio, una fila al semaforo. Giulia prova un vero fastidio per il traffico a cui non è più abituata e anche per la pioggia che la obbliga a vedere strisce di luce artificiale ogni passaggio ritmico del tergicristallo. Sente più familiari le buche piene di fango delle strade senza traffico di Maputo. I ritmi in Africa erano come quelli del bradipo visto una volta nello zoo. All'improvviso un piccolo tamponamento lo coglie di sorpresa. Solo tanti anni prima aveva avuto un incidente, niente di grave, ma ricorda la paura nel vedere un utilitario venirle contro. La paura quella volta aveva amplificato solo qualche piccolo particolare, le note della canzone di Vasco Rossi, che continuavano a risuonarle nelle orecchie. Lei aveva continuato a cantarle, anche mentre parlava coi carabinieri. Quella volta, appena sentita la botta da dietro, Giulia si blocca, stranamente incapace di reagire, indifferente. Un uomo bussa al finestrino. Lei, al secondo toc-toc, con lentezza, mette un dito sul bottone e abbassa il vetro. Lo vede, non lo riconosce, e poi si blocca. Anche lui la riconosce all'improvviso. Sorride un po' allibito. La invita a scendere dall'auto, a entrare nel bar. Però lei fa fatica a parlare. È stordita. Quanto tempo è passato? 19, no, no, 20 anni. Tutto torna all'improvviso, così indesiderato. Sente uno strano freddo dentro mentre scende dall'auto. Un sudore gelido. Se lo ricordava più alto, ora le sembra più bello. Ha un fascino che gli mancava. Si odia per ricordare il passato. Scaccia quei pensieri, però lui parla, parla. Le ricorda come la pioggia le abbia sempre fatto lo stesso effetto di innervosirla. Tutti hanno un punto debole. E lui cerca di trovarlo per strapparle un sorriso, o una debolezza vera, e allentare la tensione che sente. Prova a scherzare un po', e lei risponde cinica, prendendolo in giro per la macchina di lusso che inevitabilmente guida. Fa parte dello status sociale a cui aspiravi, anche se dicevi per farmi piacere che chi comprava una macchina grande lo faceva perché aveva un certo attributo che non nomino, piccolino. Certo che è strano incontrarsi qui, non trovi? Le coincidenze non esistono, quante volte l'hai detto? L'ultima volta l'ho detto quando ho scoperto le bugie che hai provato a raccontarmi quando sei andato con quella. No, non dirlo, non voglio neanche che ne parliamo. Non mi dire che lei è tua moglie. No, non è lei. Cosa vuoi che mi importasse di lei? Non dovevi prenderla così. Magari adesso staremo ancora insieme. Insieme, in quelle condizioni, ma per carità, sarebbe stata la mia rovina. Però è vero, una come quella poteva andare solo come storiella. Non certo in una famiglia come la tua, no? E questa come la chiami, non è una coincidenza? Il destino ha voluto che ci incontrassimo. Lasciamici pensare un po' e poi ti dico. Continuano a parlare avviandosi verso il bar, quello all'angolo della strada. Si raccontano delle loro vite, anche se dopo soli pochi passi, sembra quasi che lui abbia finito la sua storia. Antonio è sempre stato piuttosto figlio di papà, ma era davvero stato molto innamorato di Giulia. Guardandolo vestito in modo scontato, un po' fighetto, elegante, borghese, Giulia ha l'impressione che la sua vecchia città sia abitata da tanti robottini tutti uguali e inquadrati. Si fa quello che la moda dice. Le sembrano tutti vestirsi o muoversi nello stesso modo, andare negli stessi posti e ragionare nello stesso modo, che è sempre per lei stato un po' ottuso. Naturalmente rimanevano eccezioni, però Antonio, davanti a lei, non lo era. Come è potuto passare tanti anni con lui? Si chiede. Chiacchierano un po', lui sempre per cercare di non farla sparire subito. Si aggrappa a tutti i ricordi, come se lei fosse meteoropatica e fosse rimasta sempre quella di tanti anni prima. La pioggia la deprimeva, la neve la esaltava, ricorda lui. Il vento le era indifferente, la primavera la eccitava da morire, e la pioggia rovinava i capelli, giusto? La guarda. Giulia ha gli occhi lucidi.